Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Leopoldo Mastelloni legge Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis. Tutto andò sempre più attraverso in quei giorni, anche per Don Celzani. Egli non vide i padrini dello studente, perché l'ingegnere aveva rigorosamente proibito al figliuolo di dar corso alla cosa, ma incontrando due giorni dopo la signora Ginoni, che era sempre stata gentile con lui, ebbe il dolore di non vedersi restituito il saluto, e sarebbe stato offeso anche di più dell'affronto se avesse saputo che quella brava signora non l'aveva diretto all'offensore del figliuolo, ma all'innamorato della maestra, come quello che intralciava al suo adorato Alfredo una conquista galante sulla quale ella sarebbe stata lieta di chiudere i suoi occhi materni. Ebbe poi il colpo di grazia quello stesso giorno, ricevendo il medesimo affronto dall'ingegnere Ginoni, che gli passò accanto in via San Francesco senza neppure voltarsi a guardarlo. Era dunque rotta ogni relazione con tutta la famiglia, e questo crebbe ancora lo stato di eccitamento morboso della sua passione. Ebbe altri dispiaceri il giorno di poi. Il professor Padalocchi lo incaricò di andare a pregare in nome suo il maestro Fassi, che a una cert'ora cessasse di far saltare e giocare coi manubri la sua figliolanza, perché lo disturbavano nei suoi studi di lingua. Il segretario, già irritato, non fece l'ambasciato coi riguardi dovuti e si lasciò sfuggire la parola baccano. Il maestro andò su tutte le furie. Chiamar baccano degli esperimenti scientifici, le preparazioni pratiche e ragionate che egli faceva delle proprie lezioni, torturandosi il cervello per il bene dell'umanità, gli pareva il non plus ultra dell'audacia, e spalleggiato dalla moglie rimbeccò il segretario in tutte le regole, alludendo con impertinenza alla Pedani. Poi lo mise all'uscio, minacciandolo, e s'andò a lagnare col professore, il quale, accusando Don Celzani d'aver adempito male l'incarico e compromesso un professore con un marrano, lo redarguì, si offese delle sue risposte e non lo guardò più in faccia. Ma c'era di più. Delle sue distrazioni e della sua irritabilità avevano motivo di lagnarsi da un pezzo anche gli inquilini dell'altra parte della casa. E poiché la notizia del suo innamoramento, causa di quella grande mutazione, s'era diffusa, tutti parlavano alto e basso di lui, senza riguardi. Insomma, l'ostinatezza di quel pretucolo fallito a volere una ragazza che non lo voleva, pareva una petulante pretensione, un indizio d'orgoglio ridicolo o di imbecillimento addirittura. E non gli faceva neppure l'onore di chiamarlo amore il suo, doveva essere una brutta passionaccia di seminarista invecchiato, e gli si leggeva negli occhi, raccontavano anzi di tentativi brutali che egli aveva fatto con la signorina su per le scale, gli davan del porco, lo guardavan per traverso, poi cominciarono a fargli dei piccoli sgarbi, a cui egli rispose con altri sgarbi, lo inasprirono fino al punto che diventò egli stesso provocatore. Allora vari inquilini si lagnarono per lettera al commendatore, alcuni di essi accennando all'amore scandaloso, alla persecuzione sfacciata che faceva alla maestra, a scene che seguivan per le scale e sotto il portone, tali che le madri di famiglia non potevan più uscire con le loro ragazze senza correre il rischio di doversi coprire il viso col ventaglio. Fecero tanto fra tutti che un giorno il commendatore perdette finalmente la pazienza e decise di fare al nipote l'ultima intimidazione quando fosse rientrato per desinare. Non avrebbe di meno usato le parole più gravi, perché era disposto al buon umore da una letterina della Pedani, che lo invitava per due giorni dopo a un saggio ginnastico delle figlie dei militari, nel quale si riprometteva di far delle osservazioni profonde. Ma si indispettì al veder comparire il segretario con la fronte fasciata, pallido e impolverato. Gli domandò che cosa aveva, e gli lo disse. Alla palestra, dove continuava ad andare anche dopo persa ogni speranza per domare i suoi nervi, essendosi lanciato per disperazione a un esercizio troppo ardito sulla trave d'equilibrio, gli era fallito il piede ed era caduto giù, picchiando del capo in una delle travi di sostegno. Il commendatore si irritò anche di quello, che chiamò una pagliacciata. Poi gli disse fuor dei denti, con una severità che non aveva mai mostrata con lui, che era stanco della sua negligenza, della sua vita disordinata e indecorosa e delle lagnanze che gliene venivano da ogni parte, che lo scandalo doveva avere una fine e che se nello spazio d'una settimana non avesse visto radicalmente mutata la sua condotta, egli l'avrebbe cacciato fuori di casa. Detto questo e avvisatolo che voleva desinar solo, lo piantò. Il povero Don Celzani cadde nell'ultima disperazione, la quale non lasciò più che un dubbio nella sua mente sconvolta, se dovesse partir per Genova e imbarcarsi per l'America, o rimanere a Torino e profondere il suo piccolo patrimonio in bagordi e pazzie per istupidirsi e dimenticare. In ogni modo, se ne doveva andare subito da quella casa dove la vita non era più tollerabile. In silenzio apparecchiò le sue robe fino a notte inoltrata, poi si buttò vestito sul letto, ma non poté dormire. Acceso dalla febbre, tese l'orecchio per l'ultima volta ai rumori usati, e quella notte i rumori furono continui. Il tanto aspettato congresso dei maestri s'era aperto da una settimana. Il giorno dopo era appunto quello fissato per la discussione del quesito della ginnastica, sul quale la Pedani doveva pronunciare il suo discorso. Essa era agitata, scendeva da letto a ogni poco, vi risaliva, tornava a scendere, girava per la camera. Egli sentiva i suoi piedi nudi. All'alba si levò stanco e sbattuto. Stette incerto tutta la mattina se dovesse accomiatarsi da lei con una lettera o andare di persona. Decise di andare di persona e al tocco e mezzo salì le scale. La maestra era sola in casa. Già stava nel salottino, dando l'ultima passata al suo manoscritto, già abbigliata per il congresso, che cominciava alle 2:30. Aveva un vestito nero senza guarnizioni che le stringeva come una maglia e la faceva parere più bianca di carne e più alta di statura, e l'agitazione dell'animo dava al suo viso un'espressione di sensitività che non aveva mostrata mai. Era sola, e nonostante l'aspettazione dell'ora desiderata e il bel sole che le empiva d'oro la stanza, era malinconica. Il segretario entrò col cappello in mano, notò il vestito nero e mise un sospiro. Con quella fronte bendata, pallido e avvilito, triste come una cassa da morto, era veramente una figura da far compassione. La maestra gli domandò subito che cosa avesse al capo. «Caduto alla palestra», rispose, e soggiunse che veniva a salutarla per l'ultima volta. La pedane credette che partisse come ogni anno per la campagna e gli domandò: «Non viene neppure al congresso?» Il segretario, che aveva visto il biglietto d'invito dallo zio, se n'era dimenticato. Ebbene sì, sarebbe andato prima al congresso, l'avrebbe vista ancora una volta nella piena luce della sua bellezza e del suo trionfo, e sarebbe partito poi, con quell'ultima immagine davanti agli occhi. Ma non disse questo, la ringraziò soltanto del biglietto che essa gli porse. «Parto», disse poi con voce commossa. «Sono venuto a salutarla per sempre». La maestra lo guardò e capì ogni cosa, ma non trovò parola da dirgli. Infatti, che gli poteva dire? Ella sentiva che qualunque più lieve esortazione a rimanere sarebbe stata una lusinga, quasi una promessa, e la sua schietta natura non le consentiva di farla, perché non l'avrebbe potuta fare che con la determinata intenzione di mantenerla. Scansò i suoi occhi, guardò verso la finestra, imbarazzata, poi, vedendo che teneva lo sguardo basso, tornò a guardar lui, meditando. Essa sapeva tutto, e tutto le tornò alla mente in quel punto. L'aveva trovato in quella casa assestato, operoso, tranquillo, buono, ben voluto da tutti. Egli aveva cominciato a perdere la pace per lei, e tutto era derivato da lì. La maestra Zibelli s'era inimicata per la prima con lui, il maestro Fassi l'aveva preso in odio, i Ginoni gli avevano voltato le spalle, lo studente lo voleva sfidare, il professor Padalocchi non lo salutava più, le signorine del primo piano l'avevano messo alla porta, tutti gli inquilini gli avevano dichiarato guerra. Il commendatore lo voleva cacciare di casa, l'aveva cacciato forse, ed egli se n'era andato solo e ramingo. E infine, per lei, s'era rotto la testa e guardò la sua fasciatura, e come avviene sovente, fu ciò che v'era di comico in quel povero capo fasciato e nell'immagine che le si presentò di lui ruzzolante giù dalle travi d'equilibrio, quello che diede l'ultima mossa alla sua pietà e la spinse per la prima volta fino a un sentimento di tenerezza. Ma una musica di voci allegre risuonò in quel punto nell'anticamera, e un drappello di maestre vestite in gala e ridenti irruppero nel salotto, e dato appena uno sguardo al segretario, s'affollarono intorno alla pedani, facendo un coro di saluti ed esclamazioni. Erano le compagne che venivano a prenderla per condurla al congresso. Erano la sua passione, il mondo, la gloria che gliela strappavano, che gli rapivano anche la consolazione dell'ultimo addio. Don Celzani diede ancora un ultimo sguardo d'adorazione, pura, in quel momento, a quella bella creatura a cui non avrebbe parlato mai più, e ribevendosi le lacrime, uscì, non veduto. Thank you. Quando Don Celzani entrò nell'antica tribuna pubblica, la seduta era già aperta da quasi un'ora. Appena seduto, egli cercò la Pedani. Non la trovò subito. Vide invece la Zibelli in uno dei banchi più bassi, di faccia alla presidenza, in mezzo ad altre due maestre che egli non conosceva, e risalendo con lo sguardo su quei banchi di dietro, trovò il profilo caporalesco del maestro Fassi, che aveva intorno un grosso drappello di maestri di ginnastica di Torino, quasi tutti i visi d'antichi militari, fra i quali riconobbe la testa bionda del maestro che lavorava all'ergastolo. Ma dov'era lei? Dopo aver cercato un altro po' all'avventura, la ritrovò finalmente, riscotendosi tutto, in uno dei banchi più alti di destra. Era in un posto vicino al finestrone, in mezzo allo stuolo vivace delle maestre che erano venute a prenderla a casa e che le facevano intorno come una scorta d'onore. La luce del sole che entrava pel finestrone accendeva tutta la parte destra del suo corpo, serrato nel vestito nero. Aveva delle carte davanti, discorreva con le vicine, pareva un po' agitata. Il segretario pose un pugno sull'altro sopra il parapetto, appoggiò il mento sui pugni e rimase immobile, così, guardandola, confortato da un'ultima speranza, che una volta sola, alzando gli occhi verso quella parte, ella avesse incontrato il suo sguardo. Sarebbe stato l'ultimo addio, poi tutto sarebbe finito. Di nessun'altra cosa si curava. Come entrando, non aveva nemmeno guardato quell'aula storica, che non aveva mai vista, così non sentì neppure una parola dei discorsi che allora vi risonavano. La discussione s'aggirava ancora intorno al tema che era già stato trattato il giorno avanti, sull'opportunità di introdurre nelle scuole gli esercizi di lavoro manuale. Aveva parlato prima con grande dolcezza una maestrina veneta, facendo vedere un modo trovato da lei di insegnare a far dei canestrini con nastri di carta, e un saggio dell'opera sua andava girando di mano in mano per i banchi, dove le maestre si provavano a rifare il lavoro. Poi aveva parlato un maestro calabrese con una voce cantante e lamentosa, mostrando una grossa cesta piena di lavori fatti nella sua scuola, fra i quali c'era anche un paio di scarpe. Dopo di lui, avendo parlato alcuni oratori dissenzienti, la discussione s'era accalorata e inasprita. Una bella maestra che faceva da segretario dovette rileggere una parte del verbale dell'altra seduta. Don Celzani fu un momento distratto da una grossa voce che gridò solennemente: «I rappresentanti di Milano non hanno alcun mandato imperativo!» Poi lo riscosse di nuovo una salva d'applausi fatta in onore d'una maestra, la quale con voce di soprano aveva detto che se si fosse adottato il lavoro manuale nelle scuole sarebbe stato giusto un aumento proporzionato di stipendio. Poi seguì un nuovo arruffio. Infine un maestro piccolo e grasso, con poche parole lucide e piene di buon senso, rimise la pace e il presidente poté porre ai voti un ordine del giorno per alzata di mano. 200 braccia s'alzarono, fra cui si videro moltissimi guanti di donna, abbottonati fino al gomito. Un applauso seguì la votazione e si passò all'altro tema, che erano le modificazioni da proporsi nell'insegnamento della ginnastica. Thank you. L'annunzio del tema fece dare uno scossone a Don Celzani, che credeva che la Pedani parlasse subito, e nel volger gli occhi da quella parte egli vide comparir nella tribuna in faccia alla sua, proprio sul capo della maestra, il viso ridente dell'ingegner Ginoni. Ma la sua aspettazione fu delusa. Altri parlarono prima, maestri e maestre. Il segretario cominciava a temere che la Pedani non avrebbe più parlato e si preparava con grande amarezza a rinunciare a quell'ultima voluttà di sentir la sua voce, di vedere applaudito e onorato il suo idolo, di portar via la propria disperazione quasi dorata dal raggio di quella gloria. Ogni nuovo maestro che parlava gli premeva che finisse, gli pareva che prolungasse apposta il suo supplizio, ed egli ne contava le parole fremendo. Finalmente, dopo un breve discorso d'una maestra toscana che si fece applaudire citando a nostra vergogna il piccolo Belgio, dove si offriva 25.000 lire di premi all'autore d'un buon libro sulla ginnastica, il presidente disse ad alta voce: «La parola è alla signora Maria Pedani». Don Celzani scattò come se lo avesse avvolto una fiamma. Corse prima un sordo mormorio, poi si fece un grande silenzio, il quale significava che la maestra era conosciuta per fama e il discorso aspettato. Tutti i visi si voltarono verso di lei. Al primo vederla in piedi, eretta, con tutto il busto sopra il banco, alta e possente, col bel viso ovale, pallido, ma risoluto, s'intese un nuovo mormorio come un commento favorevole alla sua persona, il quale subito cessò. Un secondo senso di stupore destarono le prime note della sua voce bella e strana, quasi virile, ma armoniosa, che corrispondeva perfettamente al corpo poderoso e svelto. Essa cominciò col dire che nessun miglioramento si sarebbe conseguito, sia nell'attuazione della ginnastica che nella condizione degli insegnanti, se al governo, ai municipi, a tutte le autorità non si fosse fatta sentire, come in altri paesi, la forza imperiosa della voce della nazione, profondamente persuasa dei benefici di quell'insegnamento e fermamente risoluta a volerli. Il primo debito di tutti, e in particolar modo degli insegnanti, era dunque di far propaganda di quell'idea, di inculcarla nella ragione, nella coscienza, nel cuore del popolo di tutte le classi. Essa parlava lentamente da prima, corrugando la fronte in segno d'impazienza quando la parola non le veniva, e facendo un atto dispettoso quando si imbrogliava in un periodo, come per lacerare la rete che l'avvolgeva ed esprimere il suo pensiero ad ogni costo. Leopoldo Mastelloni ha letto Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.